a scuola ero sempre in disparte. Sarà che nella vita non ho mai avuto classe. Gli altri non mi volevano, stavo fuori dal gruppo. Gli altri che dicevano è goffo, è brutto. Per il prof di meccanica ero un tipo svalvolato. Per il prof di religione ero un tipo sbagliato. Lo ero, ma meno di un prete ubriaco. Col cazzo nel culo di un bimbo molestato. Per un pugno di euro fanno danni e deliri. Gridano i grilletti come in piazza i grillini. Mi sparerò in testa il mio cervello sopra il muro. Sarà il lavoro del bidello che mi manderà a fanculo. Creo figure immaginarie nella mente. Mi sento differente dalla gente. Voci che mi guidano da sempre. Come due persone, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Sangue e ghiaccio da vampiro. Twilight inside in your mind. Oh, resto qui sul pezzo. Resto fermo, guardo, vi aspetto. Persone vuote dentro. Io creativo nell'animo, punto su me stesso. Servi del vostro signore senza senso. Accendi un cielo, aspetti il Padre Eterno. Un paese di vecchi come il governo. Mentre invento nuovi trucchi, tu pulisci i cessi. Un po' più in giù all'inferno. Quando finisce la musica, spara. Al cuore, Ramon! Al cuore! Io conto 6 colpi, negro. Io conto 2 pistole, negro. Giù la testa, coglione. Vado, l'ammazzo e torno. Sono buono perché rispetto sempre la fila. Non so cosa sia l'azzidia né l'invidia. Sono buono perché vittima di investimenti sbagliati, consigliati da amici fidati. Sono buono perché ti ho convinto a provarci con lei. Quando sono anni che di lei mi innamorerei. Buono perché rispondo scusa alle vostre scuse false e confuse. Se mi tamponi durante un incidente ti dico fa niente, sentendomi ancora più buono. Sono il più buono perché se pensi alla vita capirai che